con noi questa sera e ringrazio in particolare anche il professor Pugliese che è tornato dopo la prima serata di 6 aprile, dove avevamo introdotto anche in maniera con un approfondimento storico il tema del Mediterraneo come centro, diciamo, di convergenze, di navigazioni, di conquiste, ma anche, soprattutto nei giorni nostri, di problematiche legate alla migrazione dei popoli, non sono però purtroppo anche risolti, spesso molto tragici e pesanti dal punto di vista dell'equilibrio politico internazionale, diciamo così. Il professor Pugliese lo conoscete, già altre volte è intervenuto in occasione di alcune conferenze organizzate dalla Biblioteca Provinciale. Per noi è importante anche la collaborazione con la scuola, con il professor Pugliese, perché in questo modo possiamo sempre arricchire la nostra collezione anche bibliografica, facciamo sempre una piccola bancarella vetrina di alcuni temi da approfondire e così cerchiamo di ampliare i nostri orizzonti e approfondire anche le conoscenze rispetto a quella che è la cronaca che ci viene così fornita quotidianamente in maniera anche molto veloce, diciamo, attraverso i media. Il tema di questa sera sarà un proseguimento più aggiornato, più attuale della tematica della migrazione e segnalo in questa occasione anche l'appuntamento di lunedì 15 maggio, dove noi avremo un nuovo incontro con l'autrice e l'autore del libro Quando la patria uccide, Sabine Mayr e Joachim Innerhofer, con tanti ospiti e soprattutto testimoni di famiglie appunto ebraiche che avevano risieduto qui in Alto Adige, ma che con il conflitto, col secondo conflitto mondiale, poi hanno abbandonato anche questi territori e sono state coinvolte loro malgrado nella tematica dei campi di concentramento. Ecco, io vi ringrazio, cedo la parola al professor Pugliese e ci vediamo sempre qui al primo. Grazie. Beh, intanto vi ringrazio di essere qui presenti. Io ho preparato del materiale vario, insomma, che spazia dalla storia alla qualità. E nel primo incontro, per chi vedo che qualcuno è stato presente, abbiamo fatto un excursus di tipo storico, quindi siamo partiti proprio dal Mediterraneo antico per arrivare più o meno ai giorni nostri. Ora è arrivato circa alla fine dell'Ottocento. E in questa seconda serata invece tratteremo il Mediterraneo da un punto di vista storico e politico a partire dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri. E vi farò vedere alcune cose un po' interessanti, alcune cose che leggete sui giornali e capiremo il motivo, cioè tenteremo se non altro di capire la motivazione che spinge anche molte persone a rischiare la vita o addirittura delle volte a morire in questo mare che i romani, i latini definivano il mare nostro, ma che io in maniera un po' provocatoria ho proprio dato il titolo a questa conferenza, ma è ancora nostro, nel senso che il nostro paese è abbastanza in prima linea per motivi geografici e però da un punto di vista politico pare non riesca a fare il salto di qualità, nel senso che sembra quasi che questi fatti a non moltissimi chilometri dalle nostre coste ci riguardino in maniera quasi secondaria. Uno degli stati su cui il nostro paese aveva puntato e purtroppo a causa di altri, anche nostra in parte, però soprattutto a causa di altri, non può più puntare oppure ci punta in maniera un po' particolare è la Libia, che è uno stato che purtroppo, come sapete tutti, dal 2011 è in guerra e con l'Occidente, in parte lo è stato all'inizio quando c'era Gheddafi, adesso è diviso in due tronconi, anzi se proprio si vuole essere precisi non è diviso in due tronconi come si legge o come si sente quando intervistano persone o esperti eccetera, ma è diviso in tribù e in due governi e avevano mandato un diplomatico spagnolo per cercare di trovare una soluzione. Il diplomatico spagnolo non è riuscito a trovarla e quindi siamo rimasti con due governi separati. In realtà ce ne sarebbe anche un terzo se vogliamo dare ufficialità a una terza parte che sarebbe in contatto con lo Stato islamico, quindi ci sarebbero anche loro, e poi abbiamo una serie di costellazioni, abbiamo una costellazione di tribù, tribù che vivono più o meno nel deserto, che vivono in tutta quella che è la Libia, cioè anche lo stesso nome Libia deriva dalla dominazione italiana. Quindi abbiamo creato, di fatto con il colonialismo abbiamo creato un'entità statale, che noi chiamiamo Libia, ma che in realtà era già divisa al tempo dell'impero ottomano. Quindi questo scenario molto complesso ha generato una sorta di grande... I nostri politici l'hanno definito nel 1900 più o meno uno scatolone di sabbia, perché quando l'Italia si è affacciata e ha provato a trovare il famoso posto al sole, no? Quindi quel posto di prestigio che ti davano le colonie circa 120 anni fa, ha attentato, ovviamente ha dovuto accontentarsi dei pezzettini d'Africa che erano ancora a disposizione. Uno dei pezzi a disposizione, una delle porzioni, era la Libia, che al tempo non aveva ancora, non si sapeva che ci fosse così tanto petrolio, eccetera, eccetera. Quindi era semplicemente una conquista di prestigio. Nel 1912, quella guerra che nei libri di storia, un po' a tutti gli ordini di scuola, viene detta guerra italo-turca, in realtà dovrebbe essere italo-ottomana perché era contro l'impero ottomano, che era una superpotenza dell'epoca, perché era considerato un impero molto forte, anche a livello militare abbastanza imponente, però in realtà era un gigante dai piedi d'argilla, nel senso che era in completa autodistruzione, anche non riusciva più a, l'impero ottomano non riuscì più a imporsi in Oriente, né a imporsi sulle proprie colonie, perché alla fine erano delle colonie anche per lo stesso impero ottomano, e quindi l'Italia ne approfittò in quel caso. Esistono degli interessanti libri da approfondire, perché quello scatto felino dell'Italia nel 1912, quindi quella conquista anche abbastanza veloce di pezzi della Libia, perché poi vi farò vedere che non fu una conquista militare completa, ma ci furono i pezzi, in realtà innescò una serie di problematiche abbastanza interessanti per quanto riguarda l'Europa, nel senso che l'Italia, essendosi aperta un nuovo canale di influenza in Africa, aveva un pochino, era data a mettere le castagne, a mettersi insomma nei guai riguardo l'Austria e riguardo la Germania. Quindi anche quell'aggressione, perché fu di fatto un'aggressione creata a tavolino, come si usava a fare a quel tempo, fu anche quella, poi pagammo anche quella poi nel fatto di alleanze, nel senso che avevamo promesso agli austriaci di stare fermi in un determinato contesto, e vi ricordo che l'impero austro-ungarico aveva dei grossissimi interessi nel Mediterraneo, noi avevamo firmato la triplice alleanza, l'avevamo rinnovata, ma avevamo anche iniziato a costruire una flotta con delle imbarcazioni che agli austriaci, insomma, avevano gli spienti, gli austriaci, e avevano capito che dalle nostre imbarcazioni uno dei nostri obiettivi era quello di avere influenza anche nell'Adriatico. Quindi noi cosa avevamo fatto? Abbiamo stretto degli accordi e poi, ma come fa tutti, infatti anche qui ci sarebbe da aprire un altro capitolo, non è che solo l'Italia che si è comportata in un certo modo, ci sono un po' tutti gli stati, anche l'Inghilterra, la Francia, anzi i francesi e gli inglesi hanno delle grosse colpe in Medio Oriente. In realtà ne hanno più degli americani, perché gli americani sono venuti molto dopo. Sono stati gli inglesi con l'Ovest Arabia, avevamo proprio fatto una conferenza solo sull'Ovest Arabia, perché meriterebbe un tomo solo lui, in pratica avevano imbrogliato, tra virgolette, tutta la civiltà araba, nel senso che avevano puntato su quegli arabi che noi definiamo moderati, quindi su quei regni moderati. Dopo sono diventati presidenti, al tempo stavano più sul regno perché cercavano di imitare le monarchie, come quella inglese, che era un esempio, no? Di monarchia istituzionale e costituzionale, scusate. E in pratica a questi regni furono promesse cose che poi non vennero mantenute, cioè azioni che poi non, e trattati che poi vennero completamente disattesi. Cioè gli viene promesso ad esempio che sarebbero diventati completamente indipendenti, gli viene promesso che avrebbero avuto delle licenze per estrarre il petrolio, quando in Iraq ad esempio, e invece poi il petrolio se lo divisero in Francia e Inghilterra, addirittura fu esclusa l'Italia. I veri motivi della famosa vittoria mutilata, più che territoriali, furono proprio sulle licenze petrolifere. Quindi, come vedete, la situazione. Infatti è interessante perché durante il fascismo, è vero che si andò in Etiopia ufficialmente per andare a liberare i cristiani che erano stati, eccetera, quella era una scusa ufficiale, però in realtà il fascismo fu spesso dalla parte dell'Islam, molto spesso, perché era un movimento in teoria sarebbe stato anticolonialista, cioè poi in realtà ci fu la colonia in Etiopia, eccetera, però tutti i fermenti anticolonialisti del Medio Oriente furono quasi catturati anche dal fascismo. Infatti Mussolini si fece fare la famosa foto con la spada dell'Islam e giravano documentari durante il fascismo che facevano vedere la Palestina, perché già al tempo c'era un problema in Palestina dove gli inglesi venivano descritti come assolutamente inadatti a gestire il luogo. Quindi insomma c'era una certa politica un po' particolare, cioè vista con occhi di adesso, anche se siamo tornati su certe posizioni, perché l'estrema destra italiana è filo palestinese e anche l'estrema sinistra è filo palestinese, comunque la sinistra in generale, in realtà anche la stessa DC era filo palestinese, perché Andreotti è a lui che dobbiamo il nostro piccolo, ormai è diventato piccolo, credito nei confronti degli stati medio orientali. Cioè Andreotti e poi Craxi anche avevano costruito una rete molto ma molto forte tra Italia e stati arabi. Non per nulla Sigonella fu proprio l'apice di quella politica, cioè l'Italia in pratica in quel caso lì cosa fece? Si mise a proteggere uno dei terroristi dell'Achille Lauro, quindi una persona che aveva ucciso un cittadino statunitense era protetta dallo Stato italiano, che era alleato e secondo partner della NATO. Fu una situazione un po' particolare, perché noi siamo stati sempre un alleato, ecco, la NATO è stata creata e all'inizio non ci volevano, perché eravamo considerati inaffidabili, però bisogna anche mettersi nei panni degli americani. Gli americani e gli inglesi, che ci consideravano inaffidabili, e spesso noi ci siamo offesi, sentiti offesi, dovete sapere che dopo il 43 la stima verso sia il popolo italiano anche, purtroppo, e sia verso i nostri alti, le nostre alte sfere fu al lumicino. Perché durante il governo Badoglio, e vi ricordo che il governo Badoglio era ufficialmente alleato con la Germania, ci furono 4, 5, 6, arrivavano fino a 7 delegazioni diverse per andare a contrattare la pace separata. Quindi da Lisbona alla Spagna, che erano paesi neutrali, e la Spagna poi aveva contatti, no? Perché c'era Franco, noi mandammo svariate persone quasi a titolo personale a chiedere di accordi più o meno bilaterali. Ovviamente questo genere di atteggiamento non ci ha favoriti dopo l'8 settembre, lo sappiamo come siamo stati trattati, nel senso che avevamo chiesto che l'accordo venisse spostato e gli americani e gli inglesi se ne sono altamente fregati, hanno fatto un po' quel che hanno voluto perché non si fidavano più di noi. C'era tutto un piano ben preciso per non far cadere l'Italia in mano ai nazisti, però gli americani non si sono fidati nemmeno dei nostri militari. E non ebbero poi tutti torti, perché se è vero che i nostri militari molte volte furono, ad esempio a Cefalonia, furono uccisi, no? Dalle truppe tedesche, si ribellarono, eccetera, però noi comunque eravamo visti come l'alleato che di punto in bianco cambia bandiera in mezzo a una guerra. Quindi anche chi ti accoglie dalla parte, diciamo, buona in quel caso, ha dei problemi poi a considerarti affidabili. Infatti noi eravamo potenza con belligerante, i nostri reparti vennero utilizzati in logistica nella liberazione della penisola, e raramente furono usati per azioni di guerra, anche se vi furono azioni di guerra, sabotaggi al porto di Genova, che erano l'Italia l'ha spaccata in due tra la Repubblica Sociale e il Regno del Sud. Quindi noi tutto questo l'abbiamo pagato nel 1946, cioè De Gasperi si è trovato ad avere in mano una nazione lacerata, con un'economia azzerata, con gli inglesi che cercavano perfino di strappare la Sicilia, con interessi di vario tipo gettati al vento, ci tolsero tutte le colonie di default, si vedrebbe oggi, e in più ci staccarono anche qualche altro pezzettino come l'Istria. L'Alto Adige non passò per motivi militari all'Austria, semplicemente perché e quello furono i russi a impuntarsi, ci fu un diverbio tra russi e americani, alla fine la spuntarono i russi, perché sarebbe stato un po' più complesso difendere la questione, cioè l'Alto Asia diventava parte della famosa cortina di ferro, quindi noi eravamo sul confine, ci si aspettava l'invasione, noi avevamo aspettato l'invasione sovietica per quasi 70 anni, invasione che poi non c'è stata. Diciamo però che tutto questo preambolo è per far capire che tutto quello che è successo nella storia del Mediterraneo, del nostro paese, eccetera, ha portato alla... E molti si chiedono, ma come mai oggi l'Italia non fa così, non fa colà, non fa costà? In realtà è tutto questo retaggio che ci portiamo dietro. Esistono dei libri, li trovate anche in biblioteca, dopo alla fine vi dico i testi, esistono dei libri molto interessanti che analizzano la politica estera italiana dal 1946 al 2002, per esempio. E sono libri in cui vengono descritti degli atteggiamenti ambigui, nel senso che il nostro paese non riesce mai, non è più riuscito, se non in qualche raro caso, Sigonella con Craxi e la Somalia nel 93, cioè lì lo Stato italiano decise, o l'Albania nel 97, vi ricordate quando c'è stato l'esodo albanese che dal 91 in poi sono arrivati dall'Albania, lì l'Italia poi a un certo punto cosa fece? Mandò i militari a Tirana per controllare che l'esodo fosse regolare, perché se no anche lì ci sarebbero stati morti su morti, eccetera eccetera. Ci fu anche una nave militare che impattò contro una nave che stava arrivando dall'Albania, insomma ci furono dei guai, però l'Italia prese delle posizioni, c'era Prodi in quel caso al governo, e prese delle posizioni anche nella guerra in Iraq, poi non è qui, non sto qui a discutere se è sbagliato o giusto, a mio parere al tempo non furono proprio correttissime, però la seconda guerra in Iraq se non altro ci buttammo subito da una parte, non fummo per 10 mesi a capire da che parte stare. Ecco, con il Mediterraneo, con la Libia, nel 2015 noi abbiamo avuto grossi problemi con l'amministrazione Obama, perché Obama aveva già deciso che fossimo noi a dover gestire quella parte del Mediterraneo, né gli inglesi né i francesi, per due motivi. Il primo per motivi economici, perché chiaramente gli americani si sono anche messi un attimo nei nostri panni. Fa un po' ridere che lo faccia uno straniero, non lo faccia il governo italiano, però noi abbiamo installazioni petrolifere, abbiamo quasi 1,5 punti di PIL di produzione lì che poi ci ritorna indietro, abbiamo tutta una serie di contratti che abbiamo firmato con Gheddafi che sono lì in sospeso, insomma in Libia abbiamo più di un interesse, quindi è abbastanza strano che non ci siamo fatti valere su una... Abbiamo i militari in Libano e in Afghanistan perché altri hanno fatto i guai, e non abbiamo nessuno o 150 uomini in Libia, dove in realtà abbiamo un interesse diretto. Oltre a ciò poi si è creato tutto il problema che adesso vi faccio vedere degli scafisti, cioè quasi tutta la mole di persone, così iniziamo a parlare di cose un po' attuali, tutta la mole di persone che arriva in Libia e che poi parte per l'Italia o comunque la destinazione è l'Europa, più o meno arriva quasi tutta dall'Africa, l'Africa occidentale, l'Africa nera, dove operano quali potenze? Non è che in Africa nera ci sono gli africani che comandano, ci sono i francesi in realtà, che sarebbero i nostri alleati e partner. Però sapete, i francesi diventano partner quando ci guadagnano a livello di interesse nazionale, e lo Stato francese ragiona un po' così, ma molti vedono in Macron una rivoluzione, in realtà la rivoluzione forse la farà a casa sua, ma a livello internazionale che vincesse la Le Pen o Macron, come politica spiccia c'è sempre e prima di tutto l'interesse di Parigi. Quindi, se l'ha detto anche Macron in campagna elettorale, io non avrò problemi a intervenire in Libia, non avrò problemi a intervenire in Siria, abbiamo una porta aerea nucleare, cioè i francesi con la loro grandeur comunque hanno sempre cercato di rubare spazio ad altri paesi. Noi siamo i diretti interessati perché abbiamo interessi in paesi a noi vicini. In Africa occidentale la Francia ha addirittura una moneta, ok? Gestisce una moneta con le proprie banche e ha delle cave di uranio, perché i francesi hanno le centrali nucleari e l'uranio da dove lo prendono? Lo prendono dal Niger. Infatti moltissime persone che arrivano sulle coste nostre arrivano dal Niger, perché lavorare quasi gratis per i francesi nelle cave di uranio non è tanto bello. E quindi il Niger, che non è in guerra con nessuno, si ritrova ad essere spopolato perché moltissime persone se ne vanno via per questo motivo qui, ed è uno degli stati da dove arrivano più persone. Chiaramente condizioni di lavoro disumano, nessuno dice niente. Se cercate in internet l'agenzia nucleare francese, che è a diretta dipendenza dello Stato francese, si chiama Areva, e loro praticamente gestiscono anche con una moneta tutta l'Africa occidentale, quindi tutti i paesi d'area sono strettamente legati alla moneta creata da Parigi. Questo è il primo problema. Poi il secondo problema è che in Africa occidentale operano anche i cinesi. Quindi i cinesi che cosa fanno? Vanno, comprano territori, si accordano con il presidente, chiamiamolo presidente locale, e cosa fanno? Creano magari un'infrastruttura per far vedere che sono bravi. Dicono, vabbè, lo Stato cinese vi crea l'ospedale. Benissimo, crea l'ospedale, però cosa fa in cambio? In cambio vuole manodopera a basso costo per campi da coltivare. Siccome la Cina ha parecchie persone da mantenere, in Cinese hanno iniziato a comprare un sacco di terreno in Africa occidentale, perché ci sono paesi che non... O in Nigeria, ad esempio, stanno costruendo un grandissimo scalo commerciale, ad esempio. Quindi stanno utilizzando questa porzione d'Africa, potenze come la Francia, come la Cina. La Cina è uno dei paesi che sta investendo di più in Africa, anche il Giappone, in Etiopia. Quando si parla di Etiopia, per esempio, si dimentica che ci sono basi militari del Giappone, della Cina, dell'Inghilterra, della Francia, ovviamente degli americani. Non ci sono basi italiane, però, pur che l'Etiopia è stata per larghi periodi, insomma, nella sfera italiana, anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, però anche lì non siamo molto presenti. E così in Somalia, nonostante i guai che ci sono stati dopo la fine della colonizzazione italiana, ci furono 10 anni di aiuto da parte dell'Italia allo Stato somalo, e poi ci fu però un colpo militare, in quel caso lì aiutato il colpo militare dallo stesso Stato italiano, perché erano convinti poi di mettersi d'accordo col dittatore. Invece poi da un dittatore siamo passati ai signori della guerra, e quindi in Somalia abbiamo guerre tribali, perché sapete, l'Africa alla fine è un grande continente tribale, e quindi gli stati che vedete sulle cartine geografiche spesso e volentieri sono stati proprio fatti con il righello. Il Siad addirittura ha una linea netta, la Mauritania era a nord, l'hanno spostata a sud e le hanno dato nome Mauritania. Cioè ci sono degli stati in Africa che sono completamente inventati, e quindi il problema etnico di quegli stati lì poi si riversa anche sui vicini, perché magari ci sono delle popolazioni che vivono sul confine, e quindi i due stati vanno in guerra perché in mezzo c'è una terza popolazione. Ci sono stati come il Sudan in cui c'è una guerra continua e non ne parla nessuno. Quindi dall'Africa ci sono svariati stati che si stanno spopolando. In Kenya, ad esempio, c'è il più grande campo profughi d'Africa, 1,5 milioni di persone. Questo campo profughi non è che è lì fermo, immobile, si svuota, si riempie di persone che cercano di venire in Europa. In questo caso qui il canale che si è aperto è proprio la Libia. Cioè questi si fanno la traversata nel deserto, e poi in Libia vengono recuperati da personaggi, ovviamente non proprio delle belle persone, diremo, e obbligati a pagare un biglietto che spesso e volentieri finisce magari per essere un biglietto della morte, perché come sapete ci sono naufragi continui, e a questi però si vanno anche aggiungere i 980.000 più o meno operai che lavoravano per il regime di Saddam. Perché un'altra delle frasi stereotipo che si sentono sono: ma come mai la maggioranza sono uomini che arrivano qui? Ma come mai non sono di un'età dai 25 ai 35? Ma come mai? Perché in realtà queste persone lavoravano per il regime di Gheddafi. Ovviamente adesso in Libia non ne vogliono più. E quindi se tu sei del Gambia, non è che torni in Gambia. Se sei arrivato in Libia per lavorare dal Gambia, non torni in Gambia. Quindi te ne vieni in Europa. E queste persone qui vengono praticamente obbligate a salire sui gommoni che in questo momento la Cina sta vendendo a queste persone. Sono dei gommoni con un motore da 50 cavalli che quando finisce il carburante si riempie d'acqua, il gommone, quindi l'acqua non viene più espulsa, è destinato ad affondare nel giro di un'ora e mezza più o meno. Poi gli riempiono l'inverosimile, e quindi queste persone si ritrovano poi ad essere in mezzo al mare. Come avrete notato, ci sono stati anche dei video pubblicati in rete con scafisti con gli scooter d'acqua, eccetera eccetera. Quelle sono delle strategie che si sono create gli scafisti, perché ovviamente lo scafista, il business è spendere poco, quindi ci vogliono traghetti. Noi li chiamiamo traghetti, ma in realtà sono gommoni. Ci vogliono gommoni che costino poco, e quelli cinesi costano pochissimo, sono quelli neri, sembrano quasi dei grandi sacchi, non sembrano neanche dei gommoni veri e propri. Quindi stipano a queste persone di sopra e si continua con questo esodo. Il problema che è sorto nel 2015 è che gli americani era venuto John Kerry in Italia, avete presente, no? Forse, e ricorda un po' quegli attori di cinema. Era arrivato in Italia molto semplicemente a chiedere che l'Italia facesse il suo dovere, per gli americani ovviamente, cioè che prendesse in mano la situazione in Libia. E il governo di Renzi in quel caso lì fu favorevole a questo tipo di discorso. Se vi ricordate bene, il ministro Gentiloni, quando era ministro degli esteri, nel 2015 si lasciò scappare delle frasi: siamo pronti a combattere, non abbiamo paura di mettere il piede in Libia. Cioè lui aveva fatto questo genere di dichiarazioni in conferenza stampa, perché ormai tutti davano per scontato un impegno in breve tempo in Libia. Saltò tutto in realtà, perché i rapporti dei servizi segreti italiani sconsigliavano di mettere piede in territorio libico, perché in quel preciso momento non c'era assolutamente la certezza che vi fosse un qualsiasi tipo di accoglienza più o meno pacifica di nessuno strato della popolazione. Ma non c'era un interlocutore? Sì, però gli interlocutori a parole dicevano di essere a favore di un intervento dell'ONU. Infatti noi stavamo aspettando che l'ONU ci desse il mandato, perché sennò diventa un'aggressione a uno Stato straniero. E però poi alla fine non si sono accordati tra i due generali, Serraj e Haftar, non si sono accordati, e quindi chiaramente chi appoggiamo chi? E lì si è aperto il gioco delle alleanze, quindi alcune potenze hanno appoggiato un governo, quello di Tripoli, altre potenze l'altro governo. Poi c'era sempre Sirte che si faceva un po' i fatti suoi, e comunque lì ci sono militari, ci sono carri armati, non è che a Sirte non ci fossero altri. Quindi abbiamo questa situazione. Non è sicuramente facile andare a recuperare e a mettere piede in un paese del genere, cioè rischi di dover imbarcati in una missione con 8-9 mila militari minimo. In più copertura navale, assistenza dell'aeronautica, elicotteri d'attacco, eccetera eccetera. Noi abbiamo anche militari sparsi in Afghanistan, in Libano, in missioni che non sono missioni così semplici, perché in Libano i nostri militari sono corazzati, non è che stanno lì così. Quindi abbiamo i mezzi anche che, insomma, dobbiamo recuperare. Diciamo che nel 2015 però siamo arrivati veramente vicini a fare una missione internazionale che avrebbe avuto l'Italia come paese l'Italia avrebbe dovuto comandare questa missione, avremmo dovuto prendere i porti, quindi controllare i porti e controllare le coste. Non dovevamo fare e le nostre installazioni, che comunque stiamo già controllando, tra agenzie private, militari che sono lì, reparti speciali che ci sono e non ci sono, noi comunque stiamo controllando l'apparato industriale che avevamo costruito con l'ENI, perché chiaramente quelle infrastrutture sono dello Stato italiano. Era in progetto anche di fare un'autostrada che arrivasse quasi fino in Egitto, però poi con la guerra molto è stato distrutto, quindi la Libia sarebbe un paese proprio da ricostruire da zero. In questo momento preciso, mentre stiamo parlando, quello che preoccupa un po' tutti è che nessuno, né in Europa né in Italia, ha strategie reali e concrete per sistemare la faccenda. Quindi è molto probabile che il 2017 e il 2018 saranno come il 2015. Ci sono solo due possibilità: o arriva qualcuno che si prende la responsabilità di certe scelte in politica estera, quindi che non sarà facile perché ci sono le elezioni anche in Italia nel 2018, quindi chi mette nel programma, chi è che si azzarda a mettere nel programma di andare o non andare in Libia, non è mica semplice, perché poi ci sono una serie di, anche i nostri stessi generali sono scettici, gli analisti militari al 90% dicono che è un nuovo Vietnam, quindi è una cosa abbastanza complessa. Si potrebbe però trovare una via intermedia, cioè aiutare lo Stato libico a riprendere il controllo del territorio, e quindi aiutare lo Stato libico e aiutare la Guardia Costiera libica a risistemare il proprio territorio. Questo si potrebbe fare, però ci vorrebbe una missione completamente internazionale e soprattutto con più stati partecipanti. Sarebbe interessante che partecipassero gli stati magari dell'area araba, ok? Però quelle missioni sono abbastanza pericolose, perché non so se avete presente la ex Jugoslavia. In ex Jugoslavia, quando furono mandati i caschi blu, o in Somalia, quando furono mandati i caschi blu, i guai vennero dalle zone in cui questi caschi blu furono mandati, per due motivi: perché non erano addestrati, erano truppe delle volte pakistane, delle volte filippine, delle volte di paesi che hanno un addestramento che non è adatto a quel genere di missione. Non c'erano i carabinieri all'inizio, non c'erano altro tipo di, cioè non c'erano militari specializzati per missioni che devono mantenere che devono mantenere la popolazione tranquilla e al sicuro. In Kosovo, infatti, è andata abbastanza bene, perché è intervenuta la NATO, è andata bene per la popolazione, dico. E gli italiani poi hanno fatto quell'opera di bonifica e hanno fatto in modo che le varie frange armate dessero le armi. E in Iraq i carabinieri, quando sono stati, ricordate nel 2003 in Assiria eccetera, i carabinieri svolgevano un ruolo di polizia in realtà. Infatti Bush, Obama, adesso anche Trump, loro proprio, in più, chi segue le conferenze stampa internazionali, quando parlano i presidenti americani delle missioni in Afghanistan, citano quasi sempre, o se non è, o il generale in campo, se non è il presidente, citano praticamente sempre i carabinieri, perché sono considerati un corpo particolare. Il corpo dei carabinieri, infatti, nel mondo è considerato, ha un elevato grado di specializzazione nelle missioni internazionali, perché i carabinieri sono riusciti, riescono a instaurare un buon rapporto con la popolazione, riescono ad abbassare il grado di rischio per la popolazione, eccetera, eccetera. Quindi in Iraq furono mandati proprio, cioè furono gli americani a volere che intervenissimo proprio quei reparti dei carabinieri. Il nostro esercito, infatti, da quel punto di vista è molto considerato, e nei reparti speciali che agiscono in questo momento in Afghanistan, ma non sono sotto il controllo dello Stato italiano, in realtà sono sotto il comando della NATO. Quindi noi abbiamo le truppe, tra virgolette, regolari, che fanno un servizio, e poi abbiamo le truppe speciali che fanno un altro servizio. Pochi sanno che quando fu preso Bin Laden, no? Quella fu un'operazione creata da Obama, cioè dal suo staff, le truppe speciali italiane, nel periodo in cui gli americani stavano tracciando la posizione di Obama, si occupavano delle varie zone lasciate scoperte dai famosi Navy Seals. c'è proprio un comando apposta lì con 300 militari che fanno questo genere di missioni. Sono missioni con 5, 6, 7, 8 persone altamente specializzate. Sul mio sito ho trovato un'intervista fatta a un operatore di questo tipo, che ovviamente deve rimanere anonima e assolutamente, cioè, è interessante perché comunque ci sono delle verità, insomma, che non sempre arrivano ai giornali. Quindi in questo momento abbiamo un altro problema, però, se avete letto i giornali o avete sentito la televisione o ascoltato i telegiornali, le ONG, le famose ONG, organizzazioni non governative, che sono finite nella bufera perché un pubblico ministero, Zucchero, ha, in conferenza stampa o in discrezione dei giornali, chiamatele come volete, ha detto che questo genere di lavoro che fanno può favorire gli scafisti, no? Ecco, bisogna stare attenti a interpretare bene le parole. Non ha detto che collaborano, ha detto che possono favorire. Cioè, cosa significa? Significa che gli scafisti, che ripeto, guardano il business e non guardano quanta gente muore o non muore, cosa fanno? Se sanno che nella parte di mare, quindi quando finiscono le acque libiche, finiscono quelle internazionali, ci sono 5-6 navi pronte, mettono più gente in acqua, mettono più gommoni in acqua e provano a mandarne di più, perché sanno che ci sono già le navi pronte. Ecco, con le ONG il discorso è abbastanza delicato, perché se ci sono ONG come Medici Senza Frontiere, che oggettivamente operano in paesi veramente complessi come l'Afghanistan, quasi tutta l'Africa, Medici Senza Frontiere, ci sono persone che proprio dedicano la propria vita, potrebbero fare i medici, avere uno studio privato, vivere di rendita e comunque essere molto benestanti, decidono di partire ed aiutare persone che hanno difficoltà. Quindi bisogna distinguere, e secondo me infatti le indagini è in questo senso che devono aiutare, nel senso che le persone, io credo che se andiamo a prendere 90 dei volontari a caso delle varie ONG, tipo MOAS, che è andata sotto i riflettori, eccetera, la maggioranza è sicuramente lì in buona fede. Questo è, secondo me, sicuro. Perché mi è capitato anche di conoscere persone che fanno volontariato internazionale, cioè che credono veramente nello sviluppo e nella cooperazione internazionale. Quindi, secondo me, se c'è qualcosa che non funziona, è proprio anche per sdoganare queste persone. Quindi sulle ONG sarà il caso di far luce, e soprattutto in questo caso anche l'Italia deve però prendere delle posizioni, perché la nostra Marina fa il suo lavoro, insomma. Le ONG fanno il loro, però i due lavori devono essere completamente in sinergia, non devono essere in contrasto, perché ci sono varie cosette che, insomma, andrebbero sistemate. Quindi è sorto anche quel problema lì. Gli sbarchi sono aumentati, però sono aumentati anche i morti. Nel 2016 sono aumentati i morti sulle 100, e soprattutto l'Unione Europea non ha fatto quello che aveva promesso di fare, cioè non ci ha aiutato. Su 180.000 sbarchi solo 4.000 sono finiti nelle famose quote, e paesi come la Spagna hanno avuto 8.000 sbarchi in un anno, noi 180.000. In tutto questo poi ci dimentichiamo che nel Mediterraneo c'è anche la Grecia, che è uno Stato raso al suolo ed è Unione Europea. Quindi abbiamo uno Stato dell'Unione Europea che ha tutte queste tematiche difficili come le nostre. Lì anche i numeri non si conoscono bene, perché lo Stato greco inizia ad avere dei grossi problemi anche a gestirsi porzioni del proprio territorio. La Grecia è un paese allo sbando e non ne parla nessuno. E purtroppo anche la Marina greca ha delle difficoltà. È vero che viene aiutata, eccetera, però comunque la situazione greca sul giornale, sui media internazionali e nazionali non viene mai descritta. Sembra quasi che i greci non esistano più, che il discorso che la Grecia sia a posto. In realtà la Grecia è messa peggio che nel 2010, molto peggio, con una disoccupazione altissima. In questo momento, in più, in questo periodo storico, cosa è successo? è successo che l'Inghilterra e la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea e quindi inizia a fare una politica assai diversa. Ieri mi è capitato di scrivere un articolo che ovviamente i più hanno preso come un articolo di striscio, in realtà è abbastanza importante perché il premier britannico, la May, ha telefonato a Erdogan, presidente della Turchia, e ha detto: ma forse ci possiamo accordare su Cipro. Vi ricordo che Cipro è il pomo della discordia tra Turchia, Grecia, eccetera, dal 74. Quindi la Gran Bretagna, noi quando sentiamo i giornali senti sempre le solite frasi, no? E devono dare 100 milioni di euro, e devono dare 100 miliardi, 300 milioni. In realtà la cosa che viene lasciata fuori da tutti i discorsi è che la Gran Bretagna dall'anno scorso ha ripreso a fare una politica completamente in autonomia da un punto di vista internazionale. Il problema è che anche la Francia ha quel genere di atteggiamento, cioè i francesi non si sono mica fatti problemi a non andare a provare a non farci vendere delle navi in Kuwait. Assolutamente, noi siamo paesi europei in Europa, ma poi quando si tratta di andare sui tavoli internazionali non siamo più a tanto fratelli, perché ci facciamo le scarpe l'un l'altro. Quindi anche l'Unione Europea deve decidere che cosa essere, perché vedete, è un periodo storico in cui abbiamo la Russia che ha un leader autoritario che è Putin, e quindi lui sa esattamente dove sta andando. Ha giocato d'astuzia in Ucraina, sta giocando d'astuzia in Corea. Trump sta facendo la fine di Reagan, cioè è un presidente sottovalutato che però in politica internazionale non sta facendo proprio le cose che gli vengono imputate e spiegate spesso maluccio. Cioè con la Nord Corea il 90% non scoprirà nessuna guerra, perché è... Adesso qui vedo tante persone che l'hanno vissuta la guerra fredda. Qual era la strategia della guerra fredda tra superpotenze? Era una fortissima deterrenza militare, di modo che si creasse un equilibrio in cui nessuno poteva attaccare nessuno, se no ci sarebbe stata una reciproca distruzione. L'Unione Sovietica è crollata perché Reagan ha iniziato a tirare picconate bleffando, dicendo: noi abbiamo una tecnologia, lo scudo spaziale, che un giornalista poi ha enfatizzato chiamandolo tutto Star Wars. Noi abbiamo una tecnologia in grado di bloccare e distruggere i missili intercontinentali sovietici. Fu talmente convincente che il KGB, che disse subito a Gorbaciov e a tutta la classe politica russa, Gorbaciov arrivò un po' dopo, però poi comunque su quella frase si andò avanti per 2-3 anni, che in Russia, in USA anzi, credettero di più agli analisti di Reagan, che comunque bleffarono, perché i militari dissero: non abbiamo in questo momento nessun genere di tecnologia. Fecero vedere un video, lo trovate su YouTube, dove c'erano dei satelliti che giravano dei laser e il missile veniva sparato e il laser faceva andare in tilt la centralina, chiamiamola così volgarmente, il missile sarebbe esploso. In realtà non era vero, era una semplice supposizione, come potrei io oggi venirmi a dire: facciamo uno scudo spaziale contro i missili di Air. Ok? Però fu talmente convincente che i russi ci credettero e soprattutto iniziarono ad aumentare le spese militari, andando in pratica a sfasare la loro economia. Cioè noi eravamo arrivati a un punto in cui l'URSS era superiore a livello militare convenzionale agli Stati Uniti e alla NATO, ma non poteva muoversi perché erano convinti in pratica che ci sarebbe stata una risposta molto ma molto più potente rispetto a un'eventuale invasione. Quindi siamo stati con questo stallo. Alla fine poi, insomma, si è scoperchiata la pentola, l'URSS è crollata nel 91 e ci ha lasciato il mondo unipolare, quindi anche il Mediterraneo in quel caso lì. Sembrava che fosse finita, no? L'era delle superpotenze. Noi eravamo convinti che facendo una unione economica, attenzione economica, noi siamo stati convinti che con l'unione economica potessimo andare avanti ad oltranza, perché tanto ormai il mondo era cambiato. Questo è quello che negli anni 90 ci siamo detti sui libri anche di scuola, nel senso che anche la mia generazione, quando tu arrivavi in geografia a parlare di neocolonialismo, poi postcolonialismo, poi arrivavi sempre al 92, no? E ti mettevi a discutere con gli amici sull'inno europeo, mi ricordo che a scuola si era fatto questo inno europeo, erano le medie, sembrava che fossimo nel mondo della... Boh, un mondo nuovo, era bene una cosa bella, perché oggettivamente alle guerre, guerre che c'erano, ma non pensavi più di tanto, c'era stata la guerra del 91, però poi alla fine si era risolta più o meno, c'era la guerra jugoslava comunque, però facevamo finta che non ci fosse. Però diciamo che noi occidentali eravamo convinti che tutto sommato ormai noi ci eravamo ritirati dalle colonie, avevamo ragionato che forse era meglio non fare le guerre, ma abbiamo fatto i conti senza l'oste, abbiamo fatto i conti senza i russi, senza gli americani e senza i cinesi, che sono le tre superpotenze del momento. Cioè i cinesi non è che avevano il nostro stesso ragionamento, anzi loro hanno l'obiettivo di superare l'Occidente a livello economico e tecnologico, questo è l'obiettivo dello Stato cinese, che è particolare perché se pensate è uno Stato che ha un partito comunista e quindi sta puntando sulla globalizzazione, cioè il contrario di quello che dovrebbe essere a livello ideologico. Quindi come vedete si sta spostando la politica, politica, non politica, destra, sinistra, si stanno, ci sono, in questo momento forse siamo tra globalizzazione e non globalizzazione, quindi tornare al nazionale o stare nel globalizzato. Infatti in Francia era globalizzazione Macron contro non globalizzazione che era Le Pen, e in Italia anche si sta creando questo polo, anche se da noi come al solito c'è il trasformismo che è rimasto dai tempi di De Pretis e dei governi post risorgimento. Il trasformismo è che noi abbiamo svariati partiti e movimenti che a seconda di come vanno le cose a livello internazionale o nazionale mutano, quindi un giorno sei per l'euro, un giorno non sei per l'euro, un giorno sei con l'euro, un giorno sei in Europa, un giorno va bene l'olio tunisino, un giorno non va bene, un giorno va bene quello. Quindi ecco, noi non abbiamo ancora ben capito. In altri stati invece si sono organizzati chiari, che Macron ha sempre detto certe cose, non è che se l'ha inventato l'ultimo mese, e la Le Pen è rimasta, alla Le Pen avevano spiegato che avrebbe perso voti se avesse continuato a dire di qua e di là che lei sarebbe uscita dall'euro e facciamo come gli inglesi, ha perso voti, ma è rimasta coerente perché a livello ideologico è coerente, poi non discuto le politiche eccetera. Quindi ci sono questo genere, ecco, l'Europa secondo me, soprattutto nel Mediterraneo, sta perdendo completamente la partita col resto del mondo. Quindi che cosa fare? O si diventa un macro stato, una sorta di macro stato con un esercito, ricordatevi che purtroppo in questo momento storico puoi contare qualcosa se hai una deterrenza, cioè è sempre stato così nella storia dell'uomo, e la deterrenza in questo caso sarebbe l'apparato industriale e militare dell'Europa. Quindi noi abbiamo già fatto l'unione economica, dobbiamo fare una difesa integrata, una sorta di unione militare. Però c'è il problema della Francia, che su questi temi non è molto d'accordo, e anche la Germania non è proprio, perché sapete, vuol dire condividere anche l'apparato industriale militare, cioè significa che se io costruisco un caccia e vendiamo un caccia ci guadagnano tutti. Adesso invece se la Francia vende i suoi Rafale al Kuwait guadagna solo la Francia, quindi è un competitor. In economia si parla di competitor e player. Il player sarebbe quello che gioca con te, quindi è un alleato, e il competitor è quello che compete con te. Quindi noi siamo tutti player a parole, ma poi diventiamo competitor. Non è che FCA e la Volkswagen in America si scambiano i bacini, anzi litigano e tentano di farsi le scarpe l'un l'altro, eppure sono due aziende europee. Chi ci guadagna? Le aziende americane. Stessa cosa in Cina. In Cina i francesi hanno investito tantissimo in ferrovie, tantissimo, hanno costruito ferrovie su ferrovie, ferrovie francesi però, quindi è lo Stato francese che ha costruito ferrovie. Quando eppure in questi giorni abbiamo sentito che Macron ha un forte programma di privatizzazioni, che non ha fatto però, perché è stato ministro dell'economia del governo Hollande e non hanno privatizzato. Paradossalmente abbiamo fatto più privatizzazioni noi in Italia, sono state un po' la nostra rovina, la nostra sfortuna su certi settori, per esempio quello industriale, avendo gestito non benissimo l'IRI, la grande industria italiana ha perso poi dei pezzi in giro di qua e di là e ci siamo ritrovati poi in situazioni un po' particolari. Ecco, quello che io poi vi dirò, cioè vi illustrerò del materiale. Io avevo preparato, beh, questo era più storico, se volete ve lo faccio vedere velocemente, però per farvi capire che cos'è il Mediterraneo, nel senso che il Mediterraneo non è solamente l'Occidente, ma ci sono anche un sacco di altre etnie, altre culture, quindi si parlano più o meno sei lingue. Ci sarebbe anche una lingua franca che era parlata dai corsari, quindi questo è un aspetto storico. È interessante perché i corsari avevano una loro lingua, quindi c'era una certa unione. Ecco, questa è una bellissima frase che ho deciso di inserire. E poi, se voi vedete sotto, ci sono le tre rotte: la rotta spagnola, la rotta veneziana e la rotta levantina. Ecco, queste tre rotte hanno rappresentato i tre assi di costruzione di tutta l'economia del Mediterraneo, dall'epoca antica all'epoca moderna. Anche nell'epoca dei container, quindi delle grandi navi che vedete in televisione, che girano per i porti europei e non, ancora si servono queste rotte qui. Quindi vuol dire che l'anima del Mediterraneo è rimasta abbastanza simile. Oltre a ciò, poi chi vuole, io vi posso fornire tutto il materiale se mi lasciate la vostra email. Oltre a ciò, ho collaborato anch'io alla stesura di questo report, e in questo report, che hanno collaborato penso 12-13 analisti, insomma, ho fatto anch'io una piccola parte. Ecco, in questo report qui vengono spiegate un po' tutte le cose che vi ho raccontato. Io ho cercato di essere un po' leggero su alcune questioni della Libia, perché sennò diventano cose un po' troppo pesanti, però in questo report vengono spiegate in maniera semplice, abbastanza semplice secondo me. Poi si può leggere per capitoli e si può, è una lettura insomma non così pesante, i capitoli hanno dei titoli belli chiari, quindi da qui si possono capire sbagliate cose che io ho detto e che non potevo sviluppare oggi, perché sennò se ne staremo qui fino a mezzanotte. Ecco, una cosa che vi volevo far vedere, oltre a questo materiale, che se poi volete io vi spedisco via email, e se avete un attimo di pazienza, io ho fatto delle prove. Avete presente che in televisione hanno fatto vedere quel programma, quel software, e poi c'è stato un ragazzo che è andato in TV e ha detto: io ho tracciato le navi delle ONG, eccetera. Ecco, io ne ho trovato un altro, perché quello che usava lui era a pagamento, questo invece è un sito. E in pratica sono andato anch'io a fare quel che ha fatto lui. In sostanza, questo programma, così io lo dico come funziona, perché secondo me è importante che poi le persone vedano effettivamente che cosa succede. Questo è un programma che esiste anche per gli aerei, dove tutte le navi che solcano i mari di tutto il mondo sono tracciate, hanno un transponder per motivi di sicurezza. In quella giornata in cui avevo guardato io, che era la scorsa settimana, il 3 maggio era, c'è anche l'orario, alle 12.02, vicino alla costa libica, qui c'è la costa libica, queste sarebbero le acque territoriali libiche, queste sono le acque internazionali. Questa era la nave Phoenix di Moas. Quindi la nave Phoenix, questo è il tracciamento della sua rotta alle ore 12.02, quindi vuol dire che era in acqua più o meno, sì, tutta la mattina. Questo l'ha fatto tra la tarda notte, diciamo, e la mattina, tutto questo percorso. Quindi, come vedete, aveva stazionato in area. Queste sono tutte altre navi di ONG. Come vedete, in questo caso qua, io adesso ho guardato stamattina e ho notato che non sono più posizionate come erano posizionate la settimana scorsa, evidentemente perché la Marina Militare adesso fa un altro tipo di... perché qui sono tracciate anche le navi militari, che però possono anche staccare il transporter per motivi militari, nel senso che ovviamente se no, se hai qualcuno da andare a prendere, vede che stai arrivando, te ne vai. Quindi se ci sono operazioni di antipirateria staccano e intervengono. Ovviamente staccano, però la registrazione c'è al comando di Roma, non è che... Quella invece che salta registrazione è quella delle navi civili, come in questo caso dell'ONG, che ogni tanto hanno staccato il transponder, sono entrati in acque libiche, hanno recuperato chi dovevano recuperare e sono ritornati in acque internazionali e poi nei porti italiani. Quindi il programma utilizzato da quel ragazzo effettivamente non era questo, effettivamente fa vedere una situazione, ricostruisce una situazione non tanto dissimile da quella che ha descritto nella sua audizione in Parlamento il PM Zucca, che praticamente ha fatto lo stesso ragionamento. E soprattutto la frase che a me ha fatto un po' specie, perché è un magistrato, insomma, e quindi i magistrati di solito sono molto ponderati, lui non è poi uno molto da gossip, lo si vede, è molto serio. E lui cosa ha detto? Ha detto una frase grave: non dovrei essere io a ricordarvi, e qui sì, a tutti i politici che erano presenti, a ricordarvi che sono obbligato a dirvi e a venirvi a dire se vengono lesi gli interessi nazionali. Cioè, bisogna essere molto chiari, che uno sia di destra, di sinistra, dei movimenti, e di tutto quel che volete. La prima regola per chi fa politica, ed è ovviamente italiano o francese o quel che è, ma in questo caso diciamo italiano, è la tutela completa dell'interesse nazionale. Cioè, un politico italiano non può essere d'accordo con delle azioni che vanno a ledere l'interesse nazionale italiano o interessi italiani, perché siccome è lì perché lo paga il contribuente, è stato scelto dal contribuente, tutto quello che viene fatto tramite il contribuente deve essere in funzione del benessere del contribuente, del cittadino, che ha dei diritti, ma anche dei doveri. Quindi voi che siete qua, io che sono qua, non dobbiamo essere noi che ci preoccupiamo, ma mandiamo qualcun altro a gestire i nostri interessi. In quel caso sono interessi di tutto il paese. E allora il pubblico ministero, quando ha fatto questa uscita, sinceramente un po' mi ha preoccupato. Perché ho pensato, è possibile che arrivi a dire una cosa del genere? Adesso, a prescindere dall'idea politica, a prescindere dalla ONG, a prescindere da tutto, questa frase che nessun media internazionale e nazionale ha ripreso, perché poi riprendono i pezzi, mi ha lasciato abbastanza dubbioso, perché vi racconto un'ultima cosa e poi vi lascio andare. Lo scorso anno a me è capitato di intervistare il ministro degli esteri Gentiloni, ho fatto un'intervista proprio sulla Libia, abbiamo parlato con lui quasi 40 minuti e devo dire la verità che è vero che in un'intervista uno non può raccontarti per filo e per segno che cosa hanno in mente o non in mente, eccetera eccetera, però ho avuto il sentore che appunto il nostro governo, in questo caso secondo me cambierebbe poco destra e sinistra, devo essere sincero, il nostro governo spesso e volentieri non ha il coraggio di arrivare fino in fondo a certe questioni. Mi ha dato a me personalmente questa impressione. Nel caso delle ONG mi ha dato l'impressione che abbiano indagato perché si è creato un po' di quello che si dice can-can mediatico, che è una cosa sbagliata, perché o ci sono i fatti o non ci sono, o ci sono le indagini o non ci sono. Quindi è molto grave che si passi da un discorso mediatico a un discorso concreto quando ci sono di mezzo intanto le persone che stanno morendo, perché bisogna anche essere, oltre l'interesse nazionale è importante, però ci sono le vite di queste persone e con questo sistema non le stiamo proprio salvando. Poi c'è il problema dell'accoglienza di queste persone e in questo momento il nostro sistema può darsi che a livello numerico non sia al collasso, perché dicono tutti che possiamo accogliere un tot, però siamo al collasso come organizzazione, questo è indubbio. Un collasso di organizzazione non fa star bene né chi arriva né chi è qui e non sta bene. Quindi c'è questa guerra tra i poveri che si va a innescare e una bomba sociale che può esplodere in qualsiasi momento. Quindi c'è chi diventa razzista in maniera errata, perché non è la persona che hai davanti che è il problema, è chi sta sopra che non ha gestito bene. E quindi in quei giorni si è scatenata la caccia a ma quanti ne arriveranno, non ne arriveranno. Purtroppo il nostro il nostro mondo odierno è molto ricco di fake news, cioè di notizie false. Anche il discorso del bombardamento di Trump con i missili dopo il bombardamento, no, della Siria da parte delle armi chimiche, e lì i russi hanno smentito, ma allora crediamo ai russi, crediamo agli americani, eh. Infatti io poi ve lo mando, questo report che è fatto da Alpha Institute, che è un istituto di geopolitica per cui collaboro anch'io, parla di infosfera, nel senso che esiste un mondo solo dell'informazione che va per i fatti propri spesso e volentieri, ed è purtroppo alcune volte funzionale più o meno al potere delle situazioni. Quindi io adesso vi lascio con una prospettiva, nel senso che spero anche il prossimo anno, e speriamo che nei prossimi mesi, perché sappiate, non è facile creare una conferenza. Io di solito la butto molto sulla storia, eccetera, però una conferenza di questo tipo molto attuale, è vero che personalmente scrivo per alcuni giornali, infatti avevo messo qua i link, che sono giornali come Report Difesa, Notizie Geopolitiche, sono giornali di questo tipo, li trovate in rete, e però è un giornale di questo tipo, vedete, ha solo affari di geopolitica, non parla di sport e di altro, sono giornali proprio di settore, che sono quelli però che sinceramente spesso e volentieri vi danno la notizia pura, cioè in questi articoli di solito c'è una commissione scientifica che sceglie se tu il tuo articolo lo pubblichi o no, non puoi mettere dentro quello che vuoi. Qui ne trovate alcuni miei, di analisti, eccetera, eccetera. Quindi vedremo nei prossimi mesi come andrà. Ripeto, non è stato facile costruire un percorso di un'ora su un argomento così complesso, perché si toccano troppi punti. Bisognerebbe fare una conferenza per ogni punto, una per la Libia, una per l'ONG, però chiaramente bisognerebbe fare un ciclo proprio. Ecco, l'idea sarebbe quella il prossimo anno di ridedicarne un paio, proprio una storica sulla Libia e basta, nel senso spiegare perché è così importante quel pezzo di terra che anche a Giovanni Pascoli stava così simpatico, perché poi sapete che in Italia abbiamo, l'ultimo aneddoto, noi abbiamo tutto un concetto particolare, ma nel 1912 c'era Mussolini che non voleva che andassimo in Libia, si sdraiava sui binari e finì in galera insieme a me. E avevamo un Pascoli che passa come un poeta dolce e gentile, che invece sul Corriere della Sera diceva: è giusto che andiamo a colonizzare chi è inferiore. Quindi aveva una situazione con D'Annunzio che gli darà del matto. Quindi abbiamo una situazione insomma un po' particolare, anche interessante conoscere questi aspetti. Ecco, io niente, vi saluto, vi ringrazio, so che non sarò stato sicuramente esauriente, e so sicuramente che su questi argomenti ho cercato di essere il più semplice possibile, perché poi si entra nelle sigle EURMED, eccetera, tutte sigle militari, non volevo essere così pesante e pedante. Spero di essere stato esauriente e di essere stato chiaro, di avervi fatto capire che non si può fare una politica solo di slogan, arriva Tizio, arriva Caio, oppure solo di mandiamo via questo, facciamo i blocchi navali e si sparano notizie così a casaccio, come però non si può essere neanche troppo dall'altra parte, cioè dire sì, va bene tutto, ma noi dobbiamo aiutare tutto il mondo, perché oggettivamente 301.000 km quadrati non ci sta tutto il continente, né asiatico né africano, quindi qualche ragionamento noi lo dovremmo fare prima o poi. Niente, vi saluto, vi do appuntamento a qualche altra conferenza. Posso chiedere sì, una cosa? Certo. Lei sulla NATO come la pensa? Ha ragione Trump che va abolita o... Ma Trump ha cambiato idea. Trump ha cambiato idea perché sì, adesso paghiamo di più. E noi siamo la seconda forza NATO come base, eccetera, eccetera. L'idea mia, io ho scritto un articolo che lo trovate su questo sito AISLE, ma poi vi ripeto, se mi lasciate la mail vi mando tutto, dove dico e spiego che secondo me la NATO o diventa euro-NATO, cioè ce la gestiamo noi europei, senza però dentro il Canada degli Stati Uniti, oppure tanto varrebbe sta fuori. Perché ti costa, sei vincolato, ti mandano a fare le missioni dove gli interessi nostri non ce ne sono, cioè non andiamo in Italia a difendere gli interessi americani in Afghanistan, bisogna essere anche molto chiari. Noi lì non abbiamo guadagnato nulla, neanche il prestigio internazionale, perché poi, come vedete, quando ci sono i tavoli chiamano tutti tranne l'Italia. Peacekeeping. Esatto. Sì, beh, peace fishing, dicono in ambienti militari, fishing, perché effettivamente sono quelli che fanno il lavoro quando gli altri poi. Bene, io vi ringrazio e vi saluto e ci rivedremo a ottobre.